Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Come va, chef? Buongiorno, bene. Buongiorno, benvenuti, mangia come parli. Buongiorno oggi, a tutti. Ciao, oggi Pier. Una cosa proprio tua, una cosa più tua che mia oggi. Cosa beh, polenta. Mi dici polentone. Sei un po' polentone, beh, più di me sicuramente, io sì. Sono più terrone, sicuramente. Sono più cacio e parliamo di polenta. Vi ricordo, 349-238-6666 per i vostri SM, sì, va bene, avete capito, per i vostri WhatsApp, per gli SOS Oldani, la segreteria telefonica 02-30-22-41-84, la pagina Facebook Mangia Come Parli. Dici una cosa sulla polenta sulla che non polenta. Sappiamo. Piatto classico italiano a base di farina di cereali. Le prime erano polente più scure perché fatte con farro, segale, grano saraceno, eccetera. Poi si è identificata in quella di grano turco, quindi gialla, e poi via via via dicendo su quella blu, su quella verde messicana, la multicolore. Beh, mi sembra che ci sono tanti temi da approfondire. C'è anche già un grande ospite che è il direttore Enrico Mentana. Come va? Bene, bene, voi? Buongiorno, bene, bene, Enrico. Bene. Come milanese che vive a Roma da qualche anno. Qualche anno è un eufemismo, sì, 40. Volevo essere, insomma, carino. Ecco. E, il rapporto con la polenta è buono? Ma il rapporto è ottimo e abbondante proprio, sì. Letteralmente, è buono, è buonissimo, anche se ovviamente per me è diventato un esotismo da montagna soprattutto, cioè mentre quando vivevo fino a 20 anni a Milano era uno dei piatti anche più tradizionalmente lombardi per molti aspetti, come Oldani può testimoniare, e poi adesso è diventato un piatto che mi lega di più al periodo che posso trascorrere in montagna, perché lì è un must. Perché le vacanze di Enrico Mentana, lo possiamo dire, insomma, sono spesso in montagna, sì, d'estate, sì, anche, no? Sì, vero, ci siamo anche visti in montagna, è vero, esatto, è vero, ricordo, esatto, è vero. Ma Oldani incontra tutti, Oldani insomma non sta mai, gira continuamente. Gira a mangiare, ma mangio in giro, tu lo sai. Beh, diciamo che l'attività più sociale che esiste è quella dello chef, però. Del cibo, sì. Non è che uno dice, sai, mangio da solo, non è pensabile, no? Senti, no, quindi cucino per me, no. Prego. La polenta, dico, come piatto del ricordo, della giovinezza, polenta fatta come? Con cosa? La polenta, secondo me, adesso senza citare la giovinezza o la vecchiaia, la polenta si coniuga a una serie di cose ben precise, che sono ovviamente delle carni buone, qualora fosse possibile, dei funghi buoni, qualora fosse possibile, ma anche, volendo, con del bel formaggio fuso, quello che si trova. La polenta, cioè, a me, io devo dirlo molto onestamente, come una serie di altre cose su cui non vi tedierò, però la polenta mi piace moltissimo da sola. Sì, sì, insomma, da buon milanese, buon lombardo, perché insomma poi il piatto di polenta, che sia anche dolce, ti voglio ricordare, nella mantecatura, se metti un po' di zucchero anziché il burro e il grana, diventa anche un piatto dolce. Però quello che è di buono è la polenta, da piatto povero qual era, che si è rinobilitato in questi periodi, in questi ultimi anni, devo dire che può fare da piatto unico, sia con pesce, vediamo in Veneto col baccalà, sia con i brasati piemontesi o lombardi, sia con la parte anche di verdure o di formaggi, che quella che chiamano cuncia o vuncia in alcuni punti della Lombardia, quindi credo faccia parte proprio della cultura italiana, della prima cultura italiana dell'approccio al cibo, cioè grande quantità di un prodotto povero. Va con tutto. Per prima di una maratona mentana, che si mangia? Perché le maratone mentana possono durare anche 24 ore, lo sappiamo. Sì, no, no, non si mangia, si pilucca, no. Ci sono altre cose che bisogna fare prima di una maratona, data la durata della maratona, ma non è radiofonicamente trasferibile. No, quindi cioè una maratona che comincia alle 23, la giornata di Enrico Mentana per una maratona, diciamo, dopo un... No, ma io me ne seguo, cioè, mettiamo, adesso facciamo una giornata ideale, se alle 8 e mezzo di sera finito il telegiornale incontro Oldani, questo è l'ideale ovviamente, è tutto teorica, cioè ci vado a cena e mi mangio questo mondo e quell'altro anche se alle 23 o la maratona, ci mancherebbe altro, ci sono delle priorità nella vita, mangiare bene è una di quelle. Assolutamente, mi sembra, sì, mi sembra... quasi come fa Pier dopo la sua trasmissione, che dopo intorno alle 2 di notte lo trovi a tavola. Beh, per mi sembra le quella volate. È un'altra trasmissione, mangia come Pardo, è una vera maratona. mangia come Pardo, al momento non c'è ancora nessuno che sia all'altezza, però si cercano ovviamente dei personaggi che possano sfidarmi. I politici mangiano bene, ci sono dei gourmet fra i politici? Ma dicono, i politici, se sanno che questo permette di raggranellare qualche voto, sono in grado di dire che sono dei grandissimi esperti, no? Poi magari li vedi. La verità è che quello del politico è uno di quei mestieri per cui quando arrivano a tavola e sono da soli o con compagnie fidate sono di una voracità che è simile a quella che viene loro attribuita in senso lato, no? Sì. Quando invece devono fare quei 12 o 13 pranzi elettorali in un giorno, piluccano soltanto perché gli hanno insegnato a fare così. Hanno imparato anche loro ad apprezzare poi magari poca roba di qualità, magari, giusto? Beh, insomma, la campagna elettorale comunque è uno sport estremo pure lui, adesso l'ha detto, no? Nel senso, ci sono quei politici che fanno... No, è terribile, faccio notare, no, a chi ritiene che sia un esercizio di poco conto, che non esistono i giorni di riposo nella campagna elettorale. Certo. Non esistono i momenti di riposo, è una cosa terrificante. Bisogna vedere quanti ne fanno prima di riposo. Bisogna girare in macchina, adesso hanno trovato col treno, ma bisogna girare in macchina tutto il giorno, è una cosa che già di per sé io non farei per tutto l'oro del mondo. Anche per i giornalisti al seguito. Invece il tuo rapporto con Roma, intesa dal punto di vista gastronomico, visto che sono 40 anni di frequentazione, è qualcosa di più di una buona amica, e com'è dal punto di vista appunto gastronomico? I primi sono... Roma ha delle cose, cioè tra cui, come Oldani ben sa, soprattutto una cosa, la verdura. Roma ha una serie, non solo le classiche puntarelle, ma tutta una serie di prodotti per vegetariani e vegani, e non solo, che sono straordinari. E poi i piatti romani, e anche quelli giudaico-romaneschi, perché c'è anche quella declinazione, che è quella dei carciofi alla giudia, ma non soltanto, che è particolarmente appetitosa. Però per me la capitale del mangiare italiano resta e resterà Milano, anche perché è contemporaneamente depositaria di un filone culturale tradizionale, e anche ormai punto d'aggregazione delle varie esperienze. Va bene, ai tempi degli anni 60-70 c'erano a fare da padroni i ristoratori toscani, no? Vero. Da Savini a Giannino, vero? I primi grandi ristoratori italiani. Le colline pistoiesi, l'assassino, quelle cose erano, cioè tutti questi. Però poi si è invalsa una cucina che è un po' come giusto mix, un po' messo in forte, eccetera, ma un po' anche chiara derivazione proprio lombarda e nordica in generale. Questo ha portato, secondo me, è qualcosa di molto molto notevole, di cui vediamo i benefici effetti. C'è bisogno di andare a Massachusetts per mangiare bene a Milano. Assolutamente. Ci fermiamo un attimo soltanto per il traffico e ripartiamo da qui, anche perché hai detto una parola che è, per me è proprio poesia, che è puntarelle. Senti, beh, puntarelle, traffico. Mangia come parli, mangia come parli. Puntata dedicata alla polenta. Mentana e Oldani mi hanno già messo in minoranza perché sulla sono milanesi. Insomma, Roma-Milano è una sfida eterna fra due città, comunque, insomma, entrambe ovviamente straordinarie e importanti. Le puntarelle, Oldani, tu hai presente di che cosa stiamo parlando? Con le puntarelle, ma anche il carciofo stesso che si fa a Roma, la giudia o la giudea, come chiamano, sono cose fantastiche. Poi questa parte di verdura che diceva appunto il direttore è vero, cioè, per il clima, per... anche per la volontà di stare bene, c'è questa parte verdura molto, molto vegetale che fa un po' da padrone su quella che è la cucina romana. Anche o la spesso nuova per il clima romana. Dove si mangia, no? Nel senso, a me è capitato di fare, per esempio, dei pranzi il 2 gennaio, il 3 gennaio a Roma, magari a Fregene, al mare. Vabbè. E, la concia com'è? La polenta concia com'è? La polenta concia è una delle cose più libidinose, però bisogna fare attenzione sempre alle quantità. Insomma, in poche parole, mangia come pardo, ha ragione il direttore. Ecco, quanta polenta concia si può ingerire? Io direi 100 grammi al massimo, su un menù di 4 portate. 100 grammi, pardo basta. Pardo fino a 4 kg, più o meno. Per una persona normale, secondo me, cioè, se tu hai molta fame, se magari sei in montagna, eccetera, puoi arrivare a 2 etti, ma non di più. Non di più, sì. Pardo 4 kg. Va bene. Grazie direttore, grazie. Grazie, no, direttore. Nulla. Grazie. A presto. Enrico Mentana, ma insomma, Roma e Milano, ovviamente due città nel suo cuore dal punto di vista gastronomico e non solo. Lanciamo il jingle. Guarda, non voglio sapere niente. Il jingle perché abbiamo la ricetta. Allora, che ricetta facciamo? Allora, anzitutto la devi pronunciare. Sì. Bruschetta di vitello, arancia e polenta. Beh, facciamo un bel bruschetta di vitello, arancia e polenta. Facile. Facilissimo. Cusolè il bruschetta, cusolè. Allora, anzitutto una carne di vitello, puoi prendere anche la parte della, dello scamone o della fesa. Sì, madra. Un ballo di scamone, sì. Te la fai tritare dal tuo macellaio, sì. La porti a casa, fai, la butti in un, la metti, la adagi in una piccola padella, sì. La fai sgrassare leggermente a fuoco dolce. Sì. Quando ha sgrassato tutto, se vuoi, puoi aggiungere un cucchiaino leggero di concentrato di pomodoro che avrai preparato l'estate, cioè, precedente col pomodoro fresco. Ce l'ho. Ok. Poi no, parte goccio... Se non ho il concentrato di pomodoro, dove lo prendo? Cioè, io ce l'ho, ma penso qualcuno a casa magari non c'ha il concentrato di pomodoro. Concentrato è una cosa semplice. Se vuoi, puoi non metterlo. Aggiungi un goccio di vino, aggiungi, lo fai cucinare per un po'. Anzi, a monte possiamo mettere un po' di sedano e carota tagliate a cubettini fini. Quindi abbiamo questo ragù, se vuoi un po' bianco. Nel caso possiamo aggiungere questa noce di concentrato e un goccio di vino bianco dolce, direi. Sì. Farai cucinare tutto, alla fine addenserai leggermente con un tocco molto velato di maizena per avere una salsa, per avere una salsa, un ragù di vitello molto, molto succulento. Basta, una volta che hai fatto il tuo ragù, prepari. La base deve essere una buona polenta, possibilmente una taragna, una polenta di grano turco anche integrale, cotta in un bel tegame di rame, possibilmente con il fuoco sotto. Sì, ok, chiaro. Una volta che hai cucinato tre volte, la mia nonna, la mia mamma diceva e dice mia madre, tre volte 15 minuti la polenta milanese. Tre volte 15 non so minuti. Perché non 45, però la è come i francesi che dicono volte, 80, 4 volte 20 per invece di 80, per, invece no? Di 80 voi capire. Dite tre volte 15 la polenta. Ok, certo, siete strani, siamo un po' patuano, io sposato la milanese. Vabbè, quindi... poi io direi, una volta che tu hai fatto la tua polenta, la togli dal fuoco, se sì. Vuoi la puoi mantecare, sicuramente questo tu lo farai. Aggiungerai un po' di grana, un padano, un 27-28 mesi o un parmigiano invecchiato, una noce leggera di burro. Quindi quando tutto rimane molto cremoso, molto mantecato, metterai un cucchiaio di questa polenta nel piatto. Ok. Intorno a questo tuo ragù bianco e poi una spolverata di buccia di arancia fatta al momento con gli oli essenziali dell'arancio. Tu avrai questo profumo e questa delicatezza del piatto. E questo è il bruschetta, vitello, arancia e polenta. Ma che vuol dire bruschetta? Il bruschetta in dialetto milanese è una sorta di ragù. Ah, un bel bruschetta. Diamo il benvenuto a Nico Romito. Come sta? Sì. Ciao, buongiorno. Bene, voi? Bene. Sei a Castel di Sangro. Dove sei? Io sono a Castel di Sangro, sono a Casa Donna, sì, sono a casa, sono al ristorante mio, al ristorante Reale. Ah, ecco, io mi ricordo che Castel di Sangro non interessa a nessuno, ma lo dico così perché utilizzo mezzo pubblico per private, e una delle mie prime telecronache negli anni 90, perché c'era il Castel di Sangro in Serie B, l'anno storico, sì. No, della promozione. Fu bellissimo. 2 anni in Serie B è stato il Castel di Sangro, esatto. Sei entrato nel Guinness, 5.000 abitanti Serie B. Tanta roba. Senti, oggi noi parliamo di polenta, ma che c'entra la polenta a Castel di Sangro? Beh, tu fai tutto, sei un autodidatta, sei un genio, diciamo la verità. È no? Un grande della tre cucina. 3 stelle Michelin in 7 anni. Tre stelle in 7 anni, come hai fatto? È un grande. Ho lavorato, ho studiato, ho fatto molta ricerca, tanta dedizione e creare un grande gruppo alle spalle che mi seguiva nei miei progetti. Oh. E sicuramente è stato un progetto molto molto difficile, perché comunque eravamo in un luogo dove non c'è un grande circuito enogastronomico, però adesso l'Abruzzo sta crescendo molto. Quando io ho preso le 3 stelle e le 2 stelle ero l'unico nella regione stellata, adesso ci sono 5 ristoranti con una stella, quindi l'Abruzzo, che ha 1.100.000 abitanti circa come Milano, è una regione che sta emergendo molto. Ma devo dire una cosa interessante: inizia ad essere frequentata molto da un pubblico internazionale e ancora poco dal pubblico italiano. Ah. E quello è secondo me ci sarà un ribaltamento, perché chi la scopre poi si innamora di questo territorio. Vengo io sono italiano e ti alzo la percentuale, ti porto tutti amici italiani e ti alziamo, Nico, la percentuale. Volevo chiederti 2 parole, giusto perché tu sei uno dei maestri italiani più importanti, hai fatto una carriera incredibile anche da autodidatta, quindi una persona che usa tanto la testa oltre che le mani. Il tuo progetto nuovo sulla scuola, sull'educazione dei ragazzi, dei giovani cuochi, quello che sarà un po' il futuro che noi dovremo lasciare a un certo punto. Sì, io ho aperto nel 2011 un centro di formazione, sempre a Castel di Sangro, dove ho il ristorante reale, perché io ho una struttura che è molto grande, un complesso di circa 3.000 metri quadrati. Ho aperto un centro di formazione piccolo come numero di alunni, ma molto con una didattica molto importante. Ho cercato di inserire, oltre alla pratica e alla tecnica, anche molta teoria, perché credo sempre di più che il cuoco del futuro è un cuoco che debba usare la testa, debba conoscere la storia della cucina italiana, debba capire che trasformando un piatto sta agendo in maniera chimica, fisica, una trasformazione. E quindi questa scuola poi è diventata anche impresa. Abbiamo aperto i primi ristoranti gestiti dai ragazzi di questa scuola, abbiamo aperto prima a Rivisondo, il paese dove sono nato io, adesso siamo a Milano in centro, per il prossimo mese apriamo il centro di Roma. E questi luoghi sono questi ragazzi che dopo la formazione iniziano il loro percorso direttamente da protagonisti in questi ristoranti, quindi accelero il loro processo di crescita, li responsabilizzo, e veramente abbiamo delle soddisfazioni incredibili, che vedevo dei ragazzi che di 2-3 anni acquistano responsabilità, si trasformano e diventano padroni di una materia che comunque se ne parla molto, ma per arrivare a fare una trasformazione e a fare dei menù e lavorare su delle e rispettare la materia prima ci vogliono anni di studio, ma soprattutto molta sensibilità. Nico, la tua cucina come la definisci dal 2000, quando hai iniziato, l'evoluzione che hai avuto, il cambio di location, il nuovo progetto, come definisci la tua cucina cucinata? Ma adesso la mia cucina sicuramente è una cucina essenziale, molto italiana, semplice in apparenza, ma molto complessa per arrivare a quella semplicità. La semplicità per me è un punto di arrivo. Cerco sempre di trovare 2-3 ingredienti da utilizzare su quel piatto, e soprattutto sto lavorando sempre di più sulla leggerezza, perché il tema fondamentale che noi cuochi stiamo affrontando e dobbiamo affrontare è proprio il rapporto cibo-salute, anche nella nostra ristorazione. Ah, beh, questo è molto interessante. E come la traduci? La tua cucina, visto che sei in giro per il mondo, stai aprendo nuovi concept, eccetera. Come traduci questa tua italianità, non so, a Tokyo piuttosto che a San Francisco quando tu ti muovi, o a Parigi, non lo so. Ma io la traduco nel piatto stesso. Cerco di adesso abbiamo fatto un lavoro importante in Cina, a Pechino, con l'apertura del ristorante firmato da me, e quindi all'interno di questo progetto Bulgari. Il progetto è quello di partire dai classici degli antologici, perché nel mondo la nostra cucina è poco conosciuta. In che senso? È stereotipata a tanti piatti, però tutta l'evoluzione che noi abbiamo avuto questi anni, la vera cucina, che poi non è, noi dobbiamo parlare di cucina regionale, che poi diventa cucina italiana, non è conosciuta. Noi ci sono quei 10 piatti che conoscono tutti, ma sono piatti che non sono stati, vi parlo cercando di dare un'analisi generale, non sono stati portati mai da cuochi che hanno avuto successo nella propria nazione, piatti portati da dei persone che sono andati là a lavorare per fame, hanno avuto successo, e poi vediamo che questi piatti comunque in questi 30-40 anni vivono del proprio territorio. Certo. Ogni tanto vedo delle polemiche, leggo delle polemiche su la tagliatella alla bolognese, era uscito sul New York Times, credo, una ricetta della bolognese con la panna all'interno, la vecchia tagliatella Alfredo. Però io non penso che sia, dobbiamo capire che quella non è la cucina italiana, quella è una cucina italo-americana. No, certo, è uno stereotipo di cucina italiana rimastica. Chiarissimo, grazie al professor Romito. Quindi anche a Roma ci vedremo, magari anche a Castel di Sangro. Io vorrei mangiare la capra stufata. Io questa cosa, perché quando sono le 9:30 del mattino, grazie, c'è Nico. Voglia di capra stufata, è abbastanza normale. Così grazie, abbastanza Nico. Logico. Fra poco ripartiamo con un altro grande ospite, e poi con Alessio Soldani, tutte le vostre curiosità. Fra poco. Mangia come parli, mangia come parli. Bentornati a Mangia Come Parli, puntata dedicata alla polenta, anche se poi, come vedete, contaminiamo e allarghiamo sempre il nostro spettro. Ma, allora, quante qualità di mais ci sono nella polenta? Qualità di mais ce ne sono tante. La più originale, la più riconoscibile è quella gialla di grano turco. Altrimenti si passa al mais morado o morato, che viene anche prodotta in Brianza. È quella col pigmento blu e viola, quindi è un pigmento più scuro. Perché poi a volte la vedo scura la polenta? Allora, un problema di vista, no? No, non è quella del mais, ma è quella fatta con i cereali, come si faceva una volta, con il farro, la segale, il grano saraceno. Quindi che, a volte può capitare, sì. La polenta integrale è buona? I primi semi impiantati sono stati messi, importati dalle Americhe, sono stati messi in Valtellina. Valtellina è famosa anche perché c'è questo grano, farina di grano saraceno, col quale vengono fatti i pizzoccheri piuttosto che la polenta. Quindi il fatto che tu l'abbia vista scura è perché vengono utilizzati cereali diversi. Ma aprire una parentesi sui pizzoccheri che mi fanno impazzire, si può fare? Pizzoccheri fantastico, con la stessa farina hai una carne, hai una pasta molto consistente, molto alta, e poi no, con burro, con il formaggio. Formaggio dei pizzoccheri qual è? Il bitto. Più o meno invecchiato, con formaggio fantastico, ai quali vengono aggiunti poi alcuni mettono patate e verza, e poi c'è un soffritto di burro, salvia e rosmarino, altri la patata la levano. Hai detto la parola soffritto, l'avete sentito tutti dietro il vetro? Sì, ha detto la parola soffritto. Nella cucina classica. Ciao Giorgio Pasotti, come va? Come stai? Buongiorno, ciao. Ciao Giorgio. Guarda, ciao Davide, ciao Pier. La cosa che mi fa più ridere è sentire Pierluigi che tenta di dire qualcosa. Ma lo sapete tutti che non cucina, non sa un cacchio di cucina. Sì. No, ma certo, lo sai, è il punto di partenza di questo programma. Comunque deve essere la mia giornata. Abbiamo cominciato con Mentana che ha ribattezzato il programma in Mangia Come Pardo, dicendo che mangio come altra se fa ridere. Mangia Come Pardo fa ridere, sono d'accordo a te. Senti, sei sempre bergamasco tu, no? Come no? Sì, assolutamente. Cioè, sì, oggi nella fattispecie sono bergamasco, assolutamente sì. Oggi sei bergamasco, no, ma voglio dire, dal punto di vista gastronomico, sei bergamasco, cioè la polenta. Ah, beh, guarda, sì, sono un buon estimatore della polenta, solo che essendo polenta, come dire, un po' un piatto invernale, attendo proprio quei climi un po' più freddi. Siccome quest'estate sembra di non finire mai. Lo so. Allora, aspetti il 18 dicembre proprio, cioè il primo. Il 18 dicembre, quando magari nevica, allora io mi rinchiudo qui tra le mura bergamasche e vado a mangiare la polenta. Come ti piace? La taragna? Ma guarda, la polenta a me piace proprio, no, nella maniera più semplice, polenta con magari due uova all'occhio di bue, proprio classiche. C'è anche la polenta taragna, ma è buonissima, ma è un po' più, come dire, pesantuccia, ecco. Ti piace la polenta con l'uovo? Ho fatto una strana faccia. No, è un piatto completo, perché dicevo poco fa a Pierre che la polenta aiuta, essendo un ingrediente povero e molto energetico, può essere utilizzato anche come piatto unico. Tu vedi gli abbinamenti della cucina classica italiana, che possono essere quella cuncia o vuncia, come dicono a seconda dei dialetti, col formaggio, piuttosto me ne viene in mente una, quella bianca col baccalà, quindi un pesce, piuttosto che con i brasati, come dicevo, brasati lombardi o piemontesi. Tu vedi che hai sempre una proteina e sempre poi la parte anche di una verdura, oltre che quella della polenta. Quindi ci può stare anche con l'uovo e magari una grattugiata di, visto siamo nel periodo, tartufo bianco o qualcosa magari, del genere. Quello sarebbe fantastico. Pier, Davide, non posso permettermi di invitare chef Oldani in un ristorante, però Pier, te un'osteria ti posso invitare a far mangiare la polenta qui a Bergamo. Ma magari vengo anch'io. Perché Oldani magna, non sembra, capito? Sta qua, mi fa fare tutte queste cose un po'. Al contrario di te, che sembra che mangi ma non mangi. Pier. No, io mangio, su questo non ci sono grandi dubbi. Senti, tu hai vissuto in Cina lungamente, perché lo diciamo a quei pochi che non lo sapessero. Tu sei famoso ovviamente come attore e anche per non essere esattamente un brutto uomo, ma essenzialmente tu, la tua vita è il karate, no? Ma sì, una vita precedente sì, lo è stato, perché ho fatto l'atleta di arti marziali per tanti anni, fino ai 25 anni, e ho avuto una parentesi legata alla Cina, perché volevo invece diventare un medico sportivo, e di lì sono partito subito dopo il liceo e ho fatto questi 2 anni e mezzo o quasi 3 di vita cinese, una vita cinese che è un po', come dire, diversa da quella di oggi, cioè una Cina socialista, quindi insomma un mondo completamente nuovo, ecco. E sono rimasto lì due anni e mezzo. Ecco, e lì praticamente di cosa ti nutrivi in quel periodo? Ti piaceva la cucina cinese? Ma guarda, allora, come Davide sa, la cucina cinese è varia e variopinta. Sì. Insomma, mi ricordo di aver mangiato un paio di piatti, come dire, oserei definire coraggiosi. Una volta vedo una certa euforia nella mensa degli atleti e, insomma, preso dalla curiosità, vado a vedere che cos'era il motivo di tanta felicità, ed era perché quel giorno avevano fatto il riso con gli scorpioni, che sostanzialmente era un riso bianco con degli scorpioni che sembravano veri, intatti, piccolini, e ce ne davano tre a testa. Devo fare l'imitazione di Oldani, che dice: il riso è un foglio bianco, ci adagio il mio scorpione vicino, possibilmente morto, senza soffritto, lo stufo, mamma mia, il riso con lo scorpione. Ma quanti anni fa era, Giorgio, questo? È? No, aspetta, no. È buono il riso con lo scorpione. Quando era, scusa? La verità, stiamo parlando del 1993, quindi parecchi anni fa. Adesso non vorrei... come dire, l'incantesimo, però sostanzialmente a me, al mio palato, sembrava di mangiare un riso bianco normale. Con i gamberi? No, con i gamberi, perché il sapore era, cioè la croccantezza di una patatina, le patatine quelle da sacchetto, e il sapore era veramente molto, molto leggerissimo, quasi, insomma, c'era una sorta di retrogusto di qualcosa di legato all'Oriente, non lo so, alle spezie, come quando mi hanno offerto la formica a San Paolo e mi dicono sa di zenzero e lemongrass, ecco, allora a questa cosa ho detto portatemi un po' di zenzero e lemongrass che mangio quello, grazie. No, però nel 92, come dici, era un po' i primi cuochi francesi, io ricordo Joël Robuchon che iniziava a lavorare con gli insetti, è diventato tutto vero, perché adesso stiamo aspettando una legge in Italia dove si potrà allevare gli insetti e fare, ecco, delle farine per la pasticceria. Come ben sai, eccetera, caro Basotti, qui ogni settimana abbiamo un alimento diverso e all'inizio dell'anno Oldani, da uomo strutturato e preciso, ci ha mandato tutta una lista e c'è una puntata sugli insetti che io e De Luca continuiamo in questo file Excel a buttare in fondo, capisci? Cioè, poi perché io vorrei la puntata sugli insetti non ce la posso fare, Oldani, guarda, quel giorno mi do malato, ti giuro, nella scelta tra una matriciana, una cacio e pepe e una cacio e insetti, magari no. Devo dire che anch'io sono dalla tua parte, per me è inconcepibile in questo momento utilizzare queste cose, però se il mondo va macina, non voglio sembrarvi veramente provinciale, retrogrado, non voglio assolutamente sembrare, però in Svizzera c'è una produzione, sono persone che stanno producendo queste cose in attesa di avere delle leggi in Europa dove possono cominciare per loro, che producano, esatto, ci dicano esattamente dove apriranno, che noi non andiamo, così non ci andiamo. Senti, ma tu cucini, caro Basotti? Guarda, allora, si apre un altro capitolo un po' triste della mia vita. Io, come tu sai, come voi sapete, ho una figlia di 7 anni e mezzo che è un po' la cavia, sono separato e vivo solo con lei quando sta con me, e lì, insomma, purtroppo lei viene, come dire, non sono un grande cuoco, cioè faccio delle grandi frittate, uova a tutto andare e poi delle buonissime... cotolette, delle parnatine di vitello che compro già fatte, che io scaldo solo, quindi praticamente non faccio niente. E ciononostante hai un certo successo col mondo femminile, è strana questa cosa, a cosa sarà dovuta questa? Lascia cucinare le donne, vedi? Lascia cucinare le donne, esatto. Bravo. No, però aspetta, vi potrei stupire, l'unico piatto che so fare, uno ne faccio, è il pollo al curry, il riso col pollo al curry. Allora, abbiamo il jingle della ricetta? Vai, jingle della ricetta, vai. Allora, il riso col pollo al curry dello chef Giorgio Basotti, prego. Dunque, prendo il pollo, lo taglio a piccoli pezzetti, a piccoli cubetti, e in una pentola con dell'olio d'oliva, un mezzo bicchiere di vino bianco, un mezzo dado vegetale, della soia, un cucchiaino e mezzo di soia, e chiaramente curry e, chi vuole, del peperoncino. Sì. Metto appunto a soffriggere il pollo, dopodiché o pollo o tacchino, a preferenza. Dopodiché su un riso basmati che preparo a parte, quando tutto è pronto metto insieme e più o meno questo è il piatto, ecco. Beh, è straordinario. Anche... così per non annoiare il pubblico. No, ma poi è strano che andare anche, da bergamasco potresti sostituire il riso con una buona polenta, Ah sì, addirittura. Si può fare. Molto morbida, molto mantecata, i tuoi pezzettini di pollo messi sopra, una salsa appena piccante, diventa un pollo indio bergamasco. Bella questa cosa. Bello. Ma lo sai che dicendomi mi hai fatto anche venire una certa acquolina? Sì, lo so, ragazzi. Comunque, insomma, mi sembra che Pasotti, insomma, no, c'è sul pezzo, è sul pezzo. Ma sul pezzo. Tipo me, dai, forse anch'io ti avrei potuto dire. Vabbè, fra poco ti parlerò del bruschetto. L'avete già dato, l'avete già. Ma fatto ogni settimana io mi sottopongo a questa tortura che lui mi fa queste ricette. Io sto lì che scrivo. Più che altro è esercizio di scrittura per me. Scrivo tutta una serie di cose: vitello, scamone, fesa, tritare, padella, sgrasso, fuoco dolce, concentrato. Ma tu cucini qualcosa? Ma oppure cosa cucina solo Simo, dai, a casa lo sai che insomma la scommessa è che da qui alle prossime puntate comincerà lui a dare qualche ricetta a me, quindi poi io le proverò. Scommessa persa in partenza, le grandi, come quella grande, quella grande personaggio che imita il grande Giampiero Galeazzi, no? Le ricette veloci: pasta, cacio e pepe, prendi la pasta, aggiungi il cacio, ci metti il pepe, pronto. Ecco, questa è un po' la mia, mi sembra la sintesi. Va bene, Sottone, viva la polenta, viva la polenta. Grazie, e gli scorpioni. Polenta e scorpioni. Polenta e scorpioni, ciao Giorgio, un abbraccio. Spero di non avere problemi con l'ambasciata di Cina, grande cultura, per carità, però risa gli scorpioni, scusatemi, fa. Dirti nel 95, cioè, capisci? Senti, stiamo per arrivare al momento clou, quello degli SOS Soldani. Vi ricordo 349-238-6666 per tutti i vostri messaggi WhatsApp. Ripartiamo fra poco. Mangia come parli, mangia come parli. E allora mangia come parli dopo Mentana e Pasotti, ammazza gli scorpioni, che schifo. Guarda, ancora non riesco a pensare a quella cosa lì, veramente mi verrebbe a dire SOS. No, ma preparati che una puntata da qui alla fine la faremo sugli insetti. No, dobbiamo, siamo di moda. Ma no, mi do malato. Proverò a condurre da solo. Conduci da solo con De Luca, che si dà malato pure lui, perché a lui gli scorpioni fanno schifo. Ma li mette sulla pizza, mi ha detto. No, ma veramente vi ricordo 349-238-666 6-6 per il momento del SOS Soldani. SOS Soldani. E questi sono quelli di questa settimana, cominciando da Andrea da Milano. Salve chef, vorrei farle una domanda sulla cottura della carne. Il sale è meglio metterlo durante la cottura o dopo la cottura? Grazie. Ma direi che il sale non va proprio messo sulla carne, anzi, se fosse una carne tipo un filetto per una cottura rosa, io utilizzerei un burro salato. O nel caso volessi utilizzare olio, salerei l'olio, farei sciogliere. Sulla carne non bisogna mai mettere il sale. No, perché sai, il sale corrode, quindi nel momento in cui tu la cucini da una parte o dall'altra, la parte sopra riesce questi puntini di sale alla fine, quando tu hai tutto il piatto finito, tu termini una salsa, se nel caso l'avessi, con un pizzico di sale. Però guarda che è sufficiente salare il grasso di cottura o burro salato oppure un goccio di olio con un pizzico di sale dentro. Quindi mi sorprendi sempre. Vediamo che cosa ha da chiederti Caterina da Torino. Buongiorno chef, come si usano le patate viola? E in cosa differiscono dalle patate comuni? Ma la patata viola è una patata che è stata comunque importata. Tifosa della Fiorentina, lo ricordiamo, la patata viola, al mito di Antonioni. Niente, è una patata che ha le stesse caratteristiche dell'altra, la differenza la fa il colore, quindi nel caso di chips oppure salse di patate, un gaspaccio di patata che faccio io lo faccio con una patata viola. Quindi una patata frullata con un po' di acqua, un po' di aceto, un goccio d'olio. E ma il gusto è diverso? Gaspaccio freddo. No, il gusto non è assolutamente diverso, cambia solo il colore. Quindi La parte visiva, sì, che conta. Sai, ho visto per esempio che allo Yulm, ma anche adesso al Politecnico, in altre università, c'è un laboratorio che studia i comportamenti, che segue per esempio il movimento degli occhi o il rapporto che i colori hanno anche nella percezione di un piatto. È chiaro, tu nella cucina la prima percezione che hai è la visiva, olfattiva e gustativa. E qualcuno abbina anche la musica per la parte di sound. Tra poco vi faccio sentire un classicone, ma un classicone, Silvia da Perugia. È vero che le ostriche non si possono cuocere in alcun modo e che si possono consumare solo crude? No, io direi che l'ostrica, ad esempio, a me piace molto di più quando è cotta. La cottura deve essere una cottura delicata. Una cottura classica potrebbe essere un po' di brodo di pesce con una noce di burro, quindi si compone quello che in gergo si chiama burro bianco, si porta sugli 80 gradi, si adagiano le ostriche pulite e si lasciano quei 3-4 minuti, prendono il calore, una consistenza particolare, e poi devo dire che la cottura a un frutto di mare così è sempre comunque una sicurezza in più per quando le mangiamo. Ecco, perché questo adesso, scusa, so che non c'entra niente con la polenta, però c'è questo tema, no, della grande sicurezza che si deve avere nell'utilizzo, insomma, di tutti. La tracciabilità dei prodotti che noi abbiamo nei ristoranti è proprio quella che garantisce al cliente finale la pulizia e e l'ingrediente di qualità. Però devo dire che per evitare qualsiasi cosa, come fanno, sai, un po' i giapponesi nella storia di mettere sul sushi, anzi tra il riso del sushi e il pezzo di pesce c'è un po' di wasabi, che questa... Sì. Radice che dà tantissimo, aiuta, sapore. Oltre che una piccola parte di limone, aiutano un po', tra virgolette, e con le pinze a disinfettare un po' il pesce, anche certo. Se nel caso della cucina giapponese è quasi sempre perfetta. È quasi sempre perfetta. Sì. Bene, ho fatto di tutto per allontanare il momento che invece arriva, la ricetta. Allora, oggi vi dirò la mia ricetta personale, che è quella del bruschetta di vitello. Bruschetta l'ho detto un po' all'inglese, sembrava shit, sì. No, che shit vuol dire foglio, poi shit vuol dire un'altra cosa più brutta, ma shit vuol dire foglio. Il bruschetta è vitello, bruschetta di vitello, arancia e polenta. Il bruschetta, in poche parole, cos'è? Beh, per noi milanesi il bruschetta è ragù. Bravo, vuol dire sei attento, è ragù. Allora, come facciamo? Prendo una parte del vitello, pensavo dello scamone o anche della fesa, però insomma andrei sullo scamone, me la faccio dare dal macellaio, bella tritata, pezzo, no? pregiatissimo, pensavo. Cioè, mia roba seria, lo metto in padella, lo sgrasso a fuoco dolce, no? Quindi sciacqua leggermente, sì, questa carne, proprio, sì, proprio piano, giusto piano, per il gusto di perdere del tempo apparentemente, ma non lo stiamo perdendo, lo stiamo invece valorizzando. Aggiungo un cucchiaino di concentrato di pomodoro, se ce l'hai. Sì, se va ce bene. L'ho, se ce l'ho, se ce l'ho. Poi a questo punto devo fare il mio bel ragù bianco, che sì, faccio con sedano, carote e con del vino bianco dolce. Esatto, è abbastanza semplice. A questo punto entra in campo la maizena. La che è questa? Che è questa fata. Che aiuta tutti i piatti, un po' come l'acqua. Un po' come, no? La marisa, no, la maizena. No, la maizena la mettiamo in questo ragù, no? Sì, è un addensante, giusto perché tu hai comunque un po' di carne, un po' di verdure che sono più una salsa slegata, quindi per addensare un po' utilizzi quei 3-4 grammi di maizena. Ok, la polenta taragna, quindi quella integrale, la faccio cuocere dentro un tegame. Anche bianca, va bene. Anche bianca, sì, assolutamente. La faccio cuocere dentro un tegame di rame, di quelli di rame, quindi perfetto proprio un tegame di rame, e la faccio cuocere 3 volte 15 minuti. Che è il detto milanese. Che è il detto milanese. Faccio cuocere 3 quarti d'ora. Te lo ripeto io come i catrevin che dicono i francesi. Esatto. 45 minuti. A questo punto, una volta che è cotta, che facciamo? La mantecatura, che è la cosa più importante. A questa mantecatura, fra il bruschetta e la polenta, aggiungiamo del grana, 27-28 mesi, o del parmigiano reggiano. O del pecorino, se vuoi. Anche del pecorino, potrebbe essere una versione per renderla un po' più denoantri, un po' più romana, sta polenta. Ci può stare. Farla diventare un po' più del grande raccordo anulare. Una noce di burro. E poi a questo punto cucchiaio di polenta, ragù e aggiungo una buccia d'arancia, così per dare il tocco finale. Tocco finale di freschezza, di profumo, sì, quindi diciamo parte olfattiva che può uscire con questo profumo leggero di arancia. Guarda, arrivo a dirti che questo piatto qui, che partiva così milanese, no? Vedi, la cucina è questa. Abbiamo messo il pecorino, che fa pensare veramente alle terre del centro Italia, e poi questa scorzetta di arancia che ci dà così un po'. Vedi, quindi tu appoggi del Mediterraneo. La mia idea della cucina non regionale italiana, ma diventa una cucina italiana globale, dove ci sono i prodotti tutelati, quindi arancio, esatto, della Sicilia, pecorino romano e che ne sai tu di un campo di grano? Beh, il classicone che sentiamo oggi, Pensieri e parole, 1971, quinto album di Battisti, che insomma è uno dei padri assoluti della musica d'autore italiana, e comincia insomma. Torniamo qui il riferimento indietro, al grano bene, era troppo bene. Facile. Conosci me, la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. Uno spettacolare Battisti, hai un consiglio antispreco? Ma assolutamente, Dani. Sì, l'antispreco è quello di proteggere sempre meglio i prodotti, e la polenta, quando nelle cucine che mi capita di frequentare, degli amici, le amiche, eccetera, trovo sempre questi prodotti tipo lo zafferano o la polenta o il riso nella dispensa, quindi a una temperatura ambiente. Devo dire che non va bene se si ha la possibilità di chiuderla in vasi ermetici eccetera, è bene questi tre ingredienti, soprattutto la polenta, appoggiarli in frigorifero, perché almeno non c'è la possibilità di formazione di camole e quindi di buttare via del cibo. Quindi conservazione migliore. Bene, ottimo consiglio, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri SMS Soldani, SOS Soldani, che sono dei messaggi WhatsApp per gli SOS Soldani. La pagina Facebook di Mangia Come Parli, la nostra replica alle 20 della domenica, magari ci state già seguendo in replica, che ne so, mica qua già la giornata è stata complicata con polente e polentoni, anche qualche polentone sì, simpatico, presente, simpatico presente. Ma non ci mancherebbe altro. Grazie. Grazie chef. Grazie Pierre, grazie a tutti voi. E buona giornata a tutti. Buona giornata. Ciao.